Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana in diretta, come ricordava il nostro GR24 da Bologna, dalla prima giornata di lavori del Cersaie, che è il più importante salone al mondo per la ceramica, l'arredo bagno e quant'altro. L'Italia ha perso molte posizioni in questi anni, soprattutto sul fronte dei consumi interni, tanto per cambiare, mantiene invece il terzo posto mondiale nelle esportazioni, dietro Cina e Spagna, che è la new entry di questi anni. Ne parleremo, anche perché continua il nostro viaggio che stiamo facendo da settimane nei vari settori produttivi in chiaroscuro, chiaro perché le esportazioni tengono e vanno anche bene, migliorano in molti casi rispetto al 2013, scuro perché mancano all'appello completamente i consumi interni, e ormai l'idea che si possa tornare dei consumi precedenti 2008 è un'idea sempre più remota, nessuno punta più a questo. Basterebbe vedere un po' di segno più anche nei consumi interni, nessuno si illude di arrivare in un tempo relativamente breve e accettabile ai numeri che si facevano prima del 2008. Di questo parleremo anche del filo rosso tra, da un lato, quello che è successo al G20, molti giornali hanno titolato, G20 che si teneva a Cairns in Australia, hanno titolato Germania sotto attacco. Allora, la Germania non è stata messa in maniera esplicita sotto attacco, però il Fondo Monetario Internazionale, ma soprattutto il ministro del Tesoro americano, hanno chiesto entrambi, insomma, all'Europa di avere un atteggiamento più incline alla crescita e ai consumi, di ridurre le tasse. Ora è chiaro che le tasse si possono ridurre nei paesi che vanno meglio, soprattutto quelli che vanno meglio, e tasse sui salari, ma non solo, e l'esempio è la Germania. E è stato chiesto anche di avere maggiori infrastrutture, maggiori investimenti in infrastrutture. Anche qui gli investimenti in infrastrutture si possono fare a partire da quei paesi che non hanno problemi di bilancio, e di nuovo viene in mente la Germania. Dicevo che però c'è un filo rosso che lega questo all'intervento poi di Mario Draghi oggi al Parlamento Europeo. Nel frattempo Matteo Renzi, come già vi hanno raccontato i nostri GR, ha iniziato il suo giro di incontri in questi minuti, praticamente nella Silicon Valley. Incontrerà gli italiani che hanno aperto startup in California, poi andrà nella sede di Twitter con l'amministratore delegato Dick Costro, e poi nella sede di Yahoo, anche lì la numero uno Marissa Mayer, e poi la scuola internazionale italiana di San Francisco, domani invece a New York per partecipare al vertice ONU sull'ambiente. Il filo rosso però si lega dal vertice del G20 di Cairns e le parole di Draghi di oggi anche alle dichiarazioni e commento fatto dall'ex premio premio Nobel all'economia Joseph Stiglitz. Perché ha detto in maniera molto netta: attenzione, l'Italia e l'Unione Europea devono spendere di più, occorre cambiare le regole, non guardare solo al deficit, la Germania sta distruggendo l'Europa. Era una lezione all'interno dello Strategic Forum EASY. Ha detto di ritenere Stiglitz che i governi dovrebbero spendere di più in Europa, investire, aumentano gli asset, aumenterebbero ancora di più a partire dalle infrastrutture, tutto ciò che rende più competitivo. E poi ha continuato: attenzione, in Europa negli ultimi anni ci si concentra tutti solo sui deficit finanziari e sulle passività, ma non si guarda cosa succede sul fronte degli asset, degli elementi di forza. E quello che sta accadendo in Europa è una distruzione di questi asset, di capitale umano e di altri fattori che possono in realtà portare a un potenziale di crescita futura. Quindi Stiglitz dice: nella logica di breve periodo, un po' miope, di guardare solo ai deficit, state distruggendo asset importanti dell'area euro. Ancora, continua Stiglitz, l'Italia è costretta dai vincoli europei e quindi è la cornice dell'Unione Europea che deve cambiare il proprio insieme di regole, e soprattutto arrivare a un'opera di perezoso con la Germania che sta distruggendo l'Europa stessa. Nel giorno in cui anche il Financial Times, a firma di uno dei suoi editorialisti più famosi, Wolfgang Munchau, dice: attenzione, la situazione economica dell'Italia, il debito dell'Italia è un problema per tutti noi, serve una crescita economica dell'Italia, altrimenti il fardello del debito è insostenibile, c'è un rischio addirittura di default, di fallimento. Il Financial Times non critica solo l'atteggiamento europeo, ce n'ha anche per l'Italia, che dice: attenzione, deve cambiare il sistema legale, ridurre le tasse e portare la media europea e migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione. In altre parole, l'Italia deve cambiare l'intero sistema politico. Le speranze migliori per l'Europa e per l'Italia risiedono nel programma di acquisto di bond da parte della Banca Centrale Europea, programma non ancora varato da questo punto di vista. Allora, questi temi, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, rapidamente le altre notizie in breve, partendo proprio dalla borsa. Milano è decisamente la peggiore oggi, -1,5, Parigi perde mezzo punto percentuale, Francoforte anch'essa -0,46%, l'America sostanzialmente in calo sullo Standard & Poor's dello 0,60%, euro anche sotto quota 1,29, 1,2824. Cosa va particolarmente male in Italia? Beh, di nuovo il settore del lusso, da questo punto di vista, è uno dei settori più in questi giorni che ci dà più problemi o più preoccupazioni in borsa, non nei numeri che vediamo, perché lo dico, TOZ -4,20%, ma anche IUX fa -4,30%, poi World Duty Free -2,30%, tra chi va male di nuovo ST Microelectronics -4,22%, qui pesa la vicenda dell'iPhone 6, il Banco Popolare perde il 4,20, Media 7,4, la Popolare Emilia Romagna il 3,60, Eni cala del 3,30 come Monte dei Paschi. Poi Saipem -3%, UbiBank -2,70 come CNH Industrial, World Duty Free -2,5 come Pirelli, e A2A perde il 2,20. Chi guadagna? Fiat lo 0,70, Buzzi Unicem lo 0,40, la Pop Milano lo 0,20%. Andiamo avanti con le altre notizie, al di là delle polemiche, le preoccupazioni americane e quant'altro. Allora, c'è un caso molto singolare che è accaduto in Gran Bretagna, perché il gruppo britannico Tesco, che è il colosso dei supermercati in Gran Bretagna, ha annunciato di aver sbagliato i conti, guarda caso sovrastimando gli utili del primo semestre, di ben 250 milioni di sterline, pari a 317 milioni di euro. Ha avviato un'indagine sulle procedure contabili interne, il tonfo in borsa è stato però netto, è arrivato a perdere quasi il 12% oggi il titolo alla borsa di Londra. Praticamente le stime sui risultati operativi del colosso della distribuzione erano di 1,4 miliardi di euro, e appunto si è verificato un errore, diciamo così, di calcolo di 317 milioni di euro. Dopodiché il gruppo ha chiesto l'allontanamento di 4 dirigenti per favorire l'indagine sulle procedure contabili. Lo ha annunciato il numero 1 Dave Lewis, ha chiesto che vengano allontanati 4 dirigenti considerati in qualche modo responsabili per questo clamoroso errore. Ancora le vicende europee. Angela Merkel in conferenza stampa con il premier francese Manuel Valls dice: vedo gli sforzi di Parigi, dobbiamo rispettare quello che abbiamo concordato, è possibile, ci sono diverse possibilità di generare la crescita anche senza soldi aggiuntivi, e ha citato Angela Merkel l'abbattimento della burocrazia e l'agenda digitale, sostenendo che bisogna capire dove investire per generare crescita. Le ha risposto il premier francese Valls: noi faremo le nostre riforme, ma abbiamo bisogno di più fiducia da parte della Germania. Come va il nostro spread? Volete sapere? Al 349-238-6666, è stabile a 133 punti, sostanzialmente lo stesso livello della chiusura di venerdì. Ancora il rendimento dei BTP a 10 anni del 2,35%. Allora, da quello che, per quello che riguarda invece le altre notizie che vengono dall'Italia, molti mi stanno chiedendo di commentare il nuovo livello del PIL. Allora, il nuovo livello del PIL nominale per l'anno 2013 è stato rivisto al rialzo del 3,8%. Rispetto al vecchio sistema, però siccome abbiamo già spiegato la rivalutazione del PIL, che tiene conto anche degli investimenti in ricerca e sviluppo e tiene conto anche di quello che è il contributo, diciamo così, dell'economia criminale intesa come spaccio e prostituzione, è chiaro che il raffronto cambia in termini nominali, ma non cambia il valore cambia in termini nominali, ma non cambia come raffronto sugli anni precedenti. Per effetto del processo di revisione, comunque, il livello del PIL ai prezzi di mercato è aumentato di 58 miliardi, sarebbe un più 3,8%, ma il tasso di variazione del PIL in volume del 2013 non cambia, per cui resta un meno 1,9% rispetto al 2012, perché sono tutti stati parametrizzati. Migliore invece il rapporto deficit PIL nel 2013, fermandosi al 2,8% invece che al 3%, perché il rapporto deficit PIL, sì, c'è un impatto del nuovo modo di calcolare il PIL, visto che è un rapporto tra due valori nominali. Venendo ai numeri veri, oggi i dati sugli ordinativi di luglio non sono esaltanti, per essere buoni. C'è il terzo calo consecutivo su base mensile, è male anche all'estero, comunque meno 1,5% per quello che riguarda gli ordinativi industriali. Per quello che riguarda il fatturato siamo a meno 1,3% rispetto a luglio del 2013. Pesa anche il dato di luglio il calo sui mercati esteri, è la flessione più marcata da 9 mesi, e purtroppo il livello del fatturato della nostra impresa a luglio è il più basso da 15 mesi con dati destagionalizzati. Restiamo su questo tema, perché questa mattina, per inaugurare il CERSAI qui a Bologna, è intervenuto anche il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, il quale ha detto, commentando i dati sul fatturato: c'è un rallentamento generalizzato, il dato sul fatturato purtroppo non ci sorprende, il rallentamento sta investendo tutta l'Europa e anche il PIL mondiale crescerà meno delle attese. E ancora, sempre Squinzi, sul tema più dibattuto a livello politico, l'articolo 18, meglio, la riforma del mercato del lavoro attraverso il Jobs Act, che include anche il superamento dell'articolo 18, ha detto: aspettiamo la proposta finale sui contratti, ma è assolutamente condivisibile la visione del Premier, è urgente una riforma del nostro mercato del lavoro. Vabbè, io credo che le risorse siano limitatissime, speriamo che ci sia la possibilità effettivamente di mettere in mano un taglio dell'IRAP, però come ho detto durante il convegno, credo che noi come Confindustria chiediamo in modo particolare due cose: investimenti sulle infrastrutture e investimenti sulla ricerca e lo sviluppo, perché penso che la ricrescita virtuosa del paese può venire solo da lì. Io ritengo che un'abolizione dell'articolo 18 con delle forme comunque di tutela, perché è chiaro che quando ci sono delle discriminazioni tutti siamo d'accordo che non si deve licenziare, vorrei ricordare che gli imprenditori non si divertono a licenziare i propri dipendenti, specialmente quelli che fanno il loro dovere e quelli bravi, insomma, quindi è un falso problema questo. Presidente Confindustria Giorgio Squinzi, il quale appunto poi ha aggiunto anche di essere che già l'abolizione comunque dell'articolo 18, pur essendo un problema percentualmente non così fondamentale, sarebbe comunque un segnale molto forte, in modo particolare per gli investitori esteri. Il ministro Boschi ha difeso il programma di riforma del governo. Ha detto: attenzione, è ambizioso, ma vogliamo farcela, sentiamo una grande responsabilità, almeno non potranno dire che non ci abbiamo provato. E poi ha detto, per quello che riguarda il taglio delle tasse, la riduzione delle tasse in busta paga e il taglio dell'IRAP in questo caso, ha detto: vedremo, valuteremo nelle prossime settimane la possibilità di applicare un altro taglio dell'IRAP. Le riforme devono andare avanti, sicuramente non si fermeranno. Noi sappiamo bene che nel nostro partito possono esserci discussioni interne, ma poi si marcia compatti. Per anni ci siamo sentiti dire che dobbiamo essere un gruppo unito, che dobbiamo voler bene alla ditta, adesso è il momento di dimostrarlo. Ministro Setta, nella legge di stabilità ci sarà il taglio IRAP, se ne era parlato, lei stessa l'aveva annunciato. È una delle ipotesi, noi sappiamo che grazie alla spending review avremo delle risorse disponibili da poter investire in alcuni settori strategici, una delle ipotesi è che la riduzione delle tasse ulteriori avvenga con un altro taglio dell'IRAP, ma lo valuteremo nelle prossime settimane. L'industria l'ha chiesto però anche in questi giorni, l'ha richiesto anche lei. Noi sappiamo bene che è una delle richieste da sempre di Confindustria, quella dell'eliminazione addirittura dell'IRAP. Io credo che questo governo abbia avuto il merito per la prima volta di ridurre già del 10% l'IRAP, quindi un primo passo in avanti importante, vedremo se ci sarà la possibilità di ridurla ulteriormente in stabilità. Noi siamo vicini ai cittadini italiani, quindi vogliamo bene all'Italia e cerchiamo di fare delle misure che siano di buon senso e che aiutino il nostro paese a ripartire, a cominciare ovviamente dal mondo del lavoro. Quindi stanno insieme gli imprenditori e i lavoratori. Ministro, è già prima della legge di stabilità? Io mi auguro che venga approvato al Senato nelle prossime settimane, anzi nei prossimi giorni vorrei dire, perché è in calendario già questa settimana in aula al Senato e quindi sicuramente al Senato prima della legge di stabilità, poi ci sarà bisogno di un passaggio alla Camera ovviamente. Il ministro Boschi, adesso andiamo in pausa meteo e pubblicità, poi parleremo col presidente di Confindustria Ceramiche, chi fa gli onori di casa, del settore, per capire se è coinvolto nel mainstream, nel flusso comune di tutti i settori produttivi di questo paese, sempre in diretta qui dal Cersai di Bologna, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, dicevamo che siamo qui a Bologna al Cersaie, che è il maggior salone al mondo e quindi la maggiore esposizione mondiale nel settore della ceramica. 916, quasi 1000 gli espositori provenienti da 38 paesi e atteso un nuovo record di visitatori. Chiaramente sono nella stragrande maggioranza dei casi business to business, però l'anno scorso si toccò già un record di 100.000 visitatori. Come dire, il settore ha dei problemi nel nostro paese dovuti ai consumi, adesso vi arriveremo, ma l'Italia resta leader, quantomeno non nella produzione ma in quello che è la tendenza. I numeri allora, il settore delle piastrelle in Italia, della ceramica sanitaria, piastrelle e anche stoviglieria, vale sostanzialmente 27.000 addetti con 5 miliardi e mezzo di giro d'affari. 4 miliardi e 7 derivano solo dal settore delle piastrelle, e pensate, di questi 5 miliardi e mezzo 4 se ne vanno in esportazioni, e già qui capiamo che ormai anche in questo settore l'Italia è un luogo di produzione ma non più un luogo di consumo. 3,8 miliardi se ne vanno in export di piastrelle su 4 miliardi e 7. Nei primi 6 mesi, dicevamo, export in salita del 7%. Siamo, è nostro ospite qui agli studi di Radio 24, il presidente di Confindustria Ceramica, Vittorio Borrelli. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, l'export va bene, perché più 7% nel 2014, averlo come dato e riuscire a confermarlo. Però, rispetto al pre-crisi, i consumi nazionali italiani di piastrelle sono crollati, meno 50%, cioè abbiamo volumi che sono scesi a 86 milioni di metri quadri, la metà sul pre-crisi. Tant'è che noi siamo scivolati al settimo posto come paese produttore, dal quarto che ricoprivamo nel 2009. Manteniamo invece il terzo posto nell'export, dietro a Cina e Spagna. E tra l'altro invece a livello mondiale sono Cina, Brasile, India, Iran, Spagna e Indonesia. 4 miliardi, dicevo, di esportazioni, vi stanno salvando le esportazioni, e che proiezioni avete per gli ultimi 6 mesi del 2014? Beh, devo dire che come esportazione intanto noi esportiamo in tutti i paesi del mondo, e questo è un dato molto positivo. Siamo stati molto bravi negli anni a creare questo valore aggiunto che è rappresentato dal Made in Italy, dove anche dietro le piastrelle il nostro sistema distributivo vede tutta la creatività italiana, e quindi devo dire che questo è un po' una garanzia sul futuro. I mercati che hanno registrato le migliori performance sono mercati dell'Europa domestica, quindi Francia e Germania, peraltro mercati sui quali noi riusciamo a dare un ottimo servizio e che saranno anche i mercati di domani. Tradizionalmente poi esportiamo anche su mercati molto più lontani, ad esempio su Stati Uniti abbiamo una tradizione che va dietro decine e decine di anni, e appena passeranno anche questi venti di guerra, anche sui mercati nordafricani e medio orientali stavamo intraprendendo dei discorsi molto interessanti. Lì, dopo il petrolio, puntano molto sul turismo, hotel 5 stelle, wellness, quindi un prodotto italiano sicuramente un prodotto che per loro dà maggiori garanzie. Non mi ha citato la Russia, il mercato dell'est Europa? Non ho citato la Russia perché anche lì vale lo stesso discorso, è un mercato che per noi ha ottimi potenziali, il Made in Italy lì è molto apprezzato, però questa situazione di guerra sicuramente non contribuisce al commercio internazionale, lo deprime, anche se i nostri prodotti su quel mercato non subiscono restrizioni, però attualmente con queste condizioni abbiamo subito un rallentamento. Lei diceva, per quello che riguarda i paesi, diciamo, OPEC, i paesi del Medio Oriente, produttori di petrolio, lì c'è molta richiesta di qualità, di alberghi di alta fascia, 5 stelle, ma non solo, e di wellness, spa, cioè di servizi, diciamo, di lusso. Ora, la piastrella italiana si distingue anche e soprattutto per l'altro livello, sia come prodotto ma anche come prezzo, cioè è in media quasi 13 euro a metro quadro, 12,8, pensate che la Cina ne fa 5, ma la Spagna 7. Ecco, fermo restando che è importante presidiare le fasce alte, ma quando vedo il dato sulla Spagna, insomma, quando io ho iniziato a fare questo programma ormai troppi anni fa, la Spagna non era neanche all'orizzonte dell'Italia, quasi 15 anni fa. L'Italia era ampiamente davanti, c'era un po' di concorrenza cinese, però su fasce molto basse. Ora, vedere, insomma, che la Spagna riesce a produrre 7 euro, non è che abbiamo abbandonato troppo la fascia medio e medio-bassa? Sì, questo è un problema, perché assieme alla fascia alta, per mantenere tutte le funzionalità del nostro indotto, serve una massa critica, ed è chiaro che quei volumi anche sulle fasce basse avrebbero fatto comodo, e quindi bisogna, secondo me, cercare di riprenderseli. Quello che voglio dire è anche che fare questa osservazione, la Spagna ci ha fatto molto concorrenza negli anni proprio sui mercati di sbocco, tra virgolette, per un prodotto più povero, quindi per un prodotto a basso prezzo. Ci siamo un po' spartiti i mercati, noi siamo andati su dei mercati di sbocco un po' più evoluti, appunto Francia, Germania, Stati Uniti, che sono disposti per il tenore di vita che hanno a pagare un prezzo maggiore. La Spagna è andata più su quei mercati emergenti come il bacino africano, dove siccome stanno costruendo adesso si accontentano di un prodotto più povero, quindi noi siamo sui mercati di sbocco più evoluti, un po' meno, però è chiaro che per recuperare quei volumi che comunque fanno comodo dobbiamo anche sapere che la Spagna rispetto a noi negli ultimi anni ha fatto delle vere e proprie ristrutturazioni, ma parlo di sistema paese, non parlo solamente di ceramica, che gli ha permesso di acquisire una produttività che attualmente è superiore alla nostra, perché l'abbiamo misurata la produttività pro capite, dopo tutte le ristrutturazioni che lo Stato gli ha concesso di fare, la loro è migliore di un terzo rispetto alla nostra, e qui è il sistema paese che entra in gioco con i fattori di competitività, che valgono ovviamente più sull'export che non in casa nostra, dove in casa nostra siamo leader di mercato, non abbiamo produzioni provenienti dall'estero sul nostro territorio, perché lo copriamo totalmente, ma quando ci dobbiamo confrontare sui mercati internazionali, il fatto di non avere la stessa competitività, di essere penalizzati sui maggiori fattori di competitività, per noi è un problema. Fattori di competitività sono l'energia, dove la paghiamo il doppio rispetto ai nostri concorrenti, sono la burocrazia che vincola e lega le nostre imprese molto di più rispetto a quelle estere, sono la pressione fiscale che ci sottrae risorse che potremmo reinvestire in nuove tecnologie e per fare crescere le nostre fabbriche, costo del lavoro, cuneo fiscale e infrastrutture. Sì, insomma, ha fatto l'agenda del paese, Presidente. Però, venendo a questo, oggi sono intervenuti, li abbiamo ascoltati sia il Ministro Boschi che il Presidente Confindustria Squinzi. Ora, chiedere che in breve tempo si metta a mano al tema dell'energia, della burocrazia, della pressione fiscale, del costo del lavoro e delle infrastrutture mi sembra un po' tanto. Però è chiaro che alcuni di questi provvedimenti possono essere presi a costo zero. Penso alla burocrazia in primo luogo. La pressione fiscale invece è una cosa un po' diversa. Ma qual è quello più urgente per voi, visto che lei citava il caso spagnolo, alla luce anche di una vaga, insomma, apertura del ministro Boschi oggi, che ha detto vedremo sulla pressione fiscale per le imprese, ma se dovesse indicarne uno di questi? Indico quello che ha indicato Giorgio Squinzi, che è la semplificazione della pubblica amministrazione, quindi mettere mano alla pubblica amministrazione, che poi lo stesso capitolo di voce della burocrazia, viaggiano di pari passo. Faccio un esempio: se da noi e per le nostre imprese, per fare la minima cosa, servono 5 passaggi burocratici per avere un allacciamento elettrico, 11 passaggi burocratici per avere un permesso di costruire, il che vuol dire 200 giorni di attesa, quando io metto insieme tutte queste cose per costruire uno stabilimento medio o per aggiornare un nostro stabilimento ci vogliono 5 o più anni. Ecco, questo non è possibile, perché le occasioni nell'industria le devi cogliere quando ci sono quando c'è il contesto favorevole, quando ti chiedono un aumento di produzione, quando ti chiedono un prodotto. Se tu nel giro di pochi mesi non riesci a te, questa occasione sfuma e questi se la vanno a prendere all'estero. Quindi se devo indicare una cosa è la sburocratizzazione. Ecco, la cosa impressionante, perché noi stiamo compiendo, Presidente, un giro tra i vari settori produttivi che comunque tengono, e abbiamo visto il settore lattiero caseario, ma non solo, ci sono altri settori che il tessile e l'abbigliamento in occasione della moda milanese, anche voi tenetela, nel senso che il più 7% di export, se confermato, è un ottimo dato. Però ci sono delle caratteristiche ormai comuni a tutti i settori, anche se sono settori così diversi tra loro. I volumi pre-crisi difficilmente verranno ristabiliti, cioè noi non possiamo immaginare a breve che torneremo, nel caso vostro, a 160 milioni di metri quadri di piastrelle come pre-crisi. B, che l'export sta andando bene, a dimostrazione della vitalità di queste imprese. C, che non riesce a controbilanciare però il crollo dei consumi interni interamente. D, e ho concluso, che la richiesta che viene fatta alla politica e al governo è quantomeno visto che a costo zero, di ridurre gli oneri burocratici. Lei citava i 5 anni, noi abbiamo avuto ospite il proprietario delle rubinetterie bresciane dopo la visita di Renzi, Aldo Bonomi. Ci ha messo 7 anni per aprire questo stabilimento a Brescia, quindi i vostri 5 anni sono anche da record. Faccio notare che la Spagna, che non è la Svizzera, non è la Svezia, non è il Sud Corea, più o meno il tempo di apertura è tra l'anno e massimo anno e mezzo. Voi capite che in questo modo non si va da nessuna parte e, ripeto, sono riforme a costo zero, a costo solo dei burocrati, diciamo, ma a costo zero per le casse dello Stato. Grazie al presidente di Confindustria Ceramica, Vittorio Borelli, e in bocca al lupo a lei e agli associati. Crepi il lupo, grazie a voi. Eh sì, lo so, vedo molti messaggi sul tema, però attenzione, parlando con i singoli imprenditori, è così, cioè uno può girare, rigirare attorno ai problemi, ma resta sullo sfondo, e ammetto che ormai non so più cosa dire, mi sto per arrendere, l'incapacità della nostra pubblica amministrazione di capire che cosa serve all'impresa, non soldi, non agevolazioni fiscali in questo caso, semplificazioni. So benissimo la risposta, la pubblica amministrazione in parte, diciamo, giustifica se stessa con tutte queste lungaggini burocratiche, giustifica la sua esistenza. E anche qui, non è per tornare sulla polemica, ma non ho letto, forse mi è sfuggita, una forte presa di posizione da parte del sindacato nel dire basta con questi lacciuoli burocratici della pubblica amministrazione nei confronti di... non il solo imprenditore, anche i futuri occupati, quindi i lavoratori a cui il sindacato dovrebbe tenere. minuti, di nuovo in diretta dal Cersaie qui a Bologna con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa oggi meno 1,43% Milano, nettamente la peggiore rispetto a Parigi, meno 0,40%, Francoforte meno 0,50%, l'America in questo momento sta perdendo uno 0,80%. C'è però il peso, tra virgolette, dello stacco di alcune cedole, di alcuni dividendi. Sappiamo che quando un titolo stacca la cedola, quel giorno viene penalizzato in base all'importo della cedola dell'utile stesso. Allora, e nel caso specifico si tratta di Eni e di ST Micro Electronics. Non a caso Eni alla fine chiude con un teorico 3,26% e ST Micro Electronics meno 4,14%. Eleonora Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Al di là di Eni e di ST Micro Electronics, invece non c'è nessuno stacco cedola per Jux, che perde il 4%, Todds meno 4%, Luxottica meno 0,90%, e invece se la passa meglio Ferragamo, che chiude invariato. Jux e Todds. Allora, va detto che si chiudono oggi proprio le sfilate della moda milanese, dove sono emerse un po' di novità sul settore. Comunque Todds proprio oggi ha tenuto l'Investor Day, vale a dire l'incontro con la comunità finanziaria, ed evidentemente non ha convinto gli analisti, che si lamentano soprattutto del fatto, avendoli sentiti al volo, che non sono state date delle guidance per il futuro. Insomma, è una relazione che evidentemente non ha convinto. Poi va detto che sul settore in particolare pesa sempre anche la trimestrale di Prada, emersa nei giorni scorsi, con la società che ha accusato, ricordiamo, un calo dell'utile addirittura superiore al 20%. Ferragamo è andata un po' meglio, si è attenuto infatti i prezzi di venerdì scorso, solo perché ieri c'è stata la sfilata, in particolare Norsa, l'amministratore delegato del gruppo, ha dichiarato che il 2014 sarà ancora un anno di crescita per la società fiorentina, la crescita sarà meno sostenuta rispetto al passato, comunque si tratterà di crescita. E invece appunto sono andate male poi anche fuori dal listino principale, Brunello Cucinelli ha perso il 4%, invece è andata molto bene AF, che da inizio anno, vorrei sottolineare, ha fatto più 170%, è la società che controlla Alberta Ferretti e Moschino, forse anche oggi ha fatto più 4% grazie al successo della sfilata di Moschino. Allora, per quello che riguarda altri titoli, CNH, anche qui abbiamo visto un report che attende, si attende con conti deludenti, invece tra gli altri titoli segnalo oggi deboli molti bancari, Banco Popolare meno 3,85%, Monte dei Paschi meno 3,21%, Mediobanca meno 3%, Pop Emilia Romagna meno 2,80%, Ubibanca meno 2,40% e ancora Unicredit meno 0,60%. Devo dire che lo spread è stabile da questo punto di vista, l'euro è in indebolimento 1,28-29, non ho visto, ma forse mi sono sfuggiti, motivi particolari per un calo dei bancari così marcato. No, però ovviamente preoccupa l'andamento dell'economia, Draghi ha un po' gelato i listini, ha detto che anche i dati dell'estate sono più deboli di quanto atteso e quindi questo ovviamente mette sotto pressione da una parte i titoli industriali, dall'altra quelli bancari. Ancora uscendo dal listino principale, ha trachinato bene la Pop Milano più 0,80% visto che parlavamo di banche, Fiat più 0,70% e lì c'è un report positivo di Mediobanca, soprattutto su Ferrari, no Eleonora? Sì, esatto, in particolare gli analisti di Mediobanca ipotizzano che Marchionne, salito alla guida di Ferrari, voglia spingere proprio sulle vendite portandole da 7.000 all'anno a 10.000 pezzi l'anno. Questo avrebbe un impatto positivo sull'utile di Fiat attorno al 4% e poi tornano peraltro a ipotizzare un'eventuale quotazione che comunque è stata più volte smentita da Marchionne. Andiamo a chiudere con i migliori e peggiori, invece Class Editori più 15%, High Real più 13,23%, Fronte Opposto, Telecom Italia Media sul risparmio meno 7,30%, Stefanel meno 5,60%, Trevi Finanziaria. Trevi Finanziaria è stata premiata, è uno dei titoli fuori dal paniere principale che è stato premiato perché ha annunciato nuove commesse in più paesi per complessivi 135 milioni di dollari. E infatti guadagna alla fine il 4,40%. Grazie, Eleonora Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore. E 10 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui dal Cesare di Bologna. Il sogno di oggi è non dovere, tanto so che è un sogno, fare un altro pezzo di puntata come questa in cui dovremo raccontare alcuni elementi di questo paese, in cui alcuni settori, visto che ne abbiamo appena parlato di dove va il paese, l'economia, con chi tutti i giorni sui mercati internazionali c'è, in questo caso il mondo della ceramica e dell'arredobagno, ecco, non dover raccontare più pezzi di paese che invece sono alla deriva in un altro mondo, antistorici, e ci sono i costi della politica locale, delle partecipate allo Stato, ma ci sono anche i diritti e i privilegi di chi i diritti e i privilegi non vuole mollare. E non dover raccontare questo in parallelo con quello che è successo poi sul fronte europeo internazionale, cioè di una Germania che, nonostante ormai glielo stiano dicendo tutti, anche gli uscieri del G20 fermavano i ministri tedeschi per dirgli attenzione che forse l'America, il Fondo Monetario, i premi Nobel stanno dicendo che la Germania deve iniziare, o l'Europa dicono in generale, ma è ovvio che il riferimento alla Germania, deve iniziare a investire un po' di più e a ridurre un po' le tasse, se no hai il parente ricco che tiene la scarsella, i soldi, il portafoglio chiuso, e gli altri che cercano di fare le riforme, annunciano le riforme, ma insomma ognuno faccia la sua parte, noi facciamo le riforme, tu spendi un po' visto che hai tutti i vantaggi di questa Unione Europea. Ecco, vorrei non far più puntate del genere, vorrei non avere più un paese come l'Italia che ha pezzi interi fermi, ancorati, aggrappati agli scogli del passato, e una Germania che ha una flessibilità pari appunto agli scogli stessi. E invece resta un sogno, perché? Perché dobbiamo parlare non tanto degli scioperi, certo c'è il tema di Meridiana, perché l'Assemblea dei lavoratori è iniziata alle 10 nel piazzale della direzione Olbia, si è sciolta a mezzogiorno con i dipendenti che hanno chiesto ai sindacati di andare avanti nella protesta, no, e dire no agli oltre 1600 licenziamenti. Nessun disordine però, nessun problema sui voli aerei, tra i voli appunto schedulati. Invece ancora in alto mare ogni tentativo d'accordo in Francia, ottavo giorno di sciopero dei piloti dell'Air France, hanno respinto la proposta di accordo della direzione. Però poi ci sono anche notizie tra virgolette positive, perché ci sono stati 101 indagati e 10 medici arrestati ad Agrigento, perché per lo scandalo falsi invalidi. Ora, noi da sempre diciamo, con massimo rispetto per i medici, che i falsi invalidi, le false malattie, il lavoratore che sta, cioè qualcuno lo firma questo certificato, quindi così come si chiede al lavoratore più responsabilità, alla legge di intervenire, anche i medici si mettono la mano sulla coscienza, alle volte ci dicano, cioè tutte le volte che fanno un certificato per malattie del lavoro, lo fanno in maniera deontologicamente corretta o vengono incontro al lavoratore magari chiedendogli quanti giorni vuoi, quanti giorni ti devo dare, quanti giorni, o le vediamo solo noi queste cose. Allora, 10 medici, dicevo, indagati, tra l'altro 8 sono i domiciliari, sono complessivamente 101. È molto interessante il titolo di questa inchiesta, perché i reati ipotizzati sono corruzione falsa e truffa aggravata, e l'inchiesta si chiama La carica dei 104. In realtà erano 101, però ne mancano 3 a questo punto. Avrei una marea di altre notizie da leggere, ma le lascio a domani, no? Il vitalizio, i baby pensionati, no? E anche la casta della ricerca agricola, il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, il CRA, che ha un compenso dei presidenti e dei membri del CDA incredibile, incredibile. Ma ne parliamo domani, non voglio bruciare tutta l'attesa. Sapete che ansia, vorrei concentrarmi solo su una cosa, perché è emblematica. C'è chi ha rievocato il film di Fellini, Prova d'orchestra. È emblematica perché la dice lunga su come poi le tutele di casta si annidino dovunque. È ovvio che lo spunto ci viene fornito oggi dalla cronaca. Il maestro Riccardo Muti ha abbandonato l'Opera di Roma. Che motivo? Molto semplice, ha detto: con queste regole, con questi sindacati, i teatri lirici italiani sono ingestibili. Ma sarà veramente così? Allora, grazie alla regia per Chopin, vediamo qualche esempio. Allora, alla Scala, nell'ultima stagione, è arrivata l'opera in 5 atti, Le Troyennes, il compositore francese Berlioz. Allora, si è dovuto aggiungere un intervallo in più rispetto al solito. Dice, cos'è successo? Hanno modificato? No. C'è una regola assurda che impedisce di accorpare più atti se la loro durata eccede quanto stabilito dal contratto, con il risultato che l'opera, già lunga e non per colpa dei sindacati, è diventata interminabile. Ma nel 2012, sempre a Milano, per la prima di Romeo and Juliet di Sacha Waltz, i coristi, a cui era stato chiesto di muovere la testa a ritmo di musica, cioè che è una roba che in Louisiana fanno da quando sono bambini, gli è stato chiesto di muovere la testa a ritmo di musica, hanno chiesto un'indennità per prestazione speciale e i ballerini un bonus perché il palcoscenico era stato leggermente inclinato dallo scenografo. Ora, il sovrintendente disse di no, perché ho capito, il palcoscenico un po' inclinato, ma addirittura l'indennità perché devi muovere la testa a ritmo di musica? E il sovrintendente ha detto di no, e infatti lo spettacolo è saltato del tutto. Poi c'è il problema del freddo. A Palermo vi furono proteste e assemblee perché in buca, nello spazio di Salvatore, perché sono dal vivo, la temperatura era di qualche grado più bassa di quanto previsto, e infatti gli orchestranti si presentarono polemicamente in cappotto durante l'opera. All'Arena di Verona, per la stagione lirica, c'è l'indennità i Arma, vuol dire, cavolo, è l'indennità di Arma, mi guardano tutti sorpresi qua, no, non ho fumato strano oggi. L'indennità di Arma è un compenso destinato a chi deve portare l'alabarda nel trovatore o lo scudo nella Ida. Attenzione a non sbagliarsi, perché l'alabarda nella Ida e lo scudo nel trovatore sarebbero anche antistoriche. Allora, ed hai un'indennità se porti l'alabarda o se porti lo scudo. Un'estate il regista del Nabucco, Dennis Krief, decise che ne aveva abbastanza, lo disse in un modo un po' più colorito, e fece irrompere nel Tempio di Gerusalemme durante il Nabucco gli Assiri perfettamente disarmati, magari anche col logo No War, perché non ne poteva più di pagare l'indennità di Arma, e quindi gli Assiri arrivarono nel Tempio di Gerusalemme disarmati, con una grande paura di tutti gli abitanti del Tempio in quel momento. All'Opera di Roma, vado a chiudere perché già sono stufo, il fondo vero e proprio si è toccato a una prova della Valchiria diretta da Giuseppe Sinopoli. Allora, alla fine della Valchiria, Sinopoli andò alla sala che era piena di studenti per avvicinare gli studenti alla musica. Adesso vi facciamo sentire il tema della spada. Servivano pochi secondi per fare il tema, ma si alzò un sindacalista che disse: maestro, la prova è finita e l'orario è finito. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Ho detto una cavolata, ogni tanto capita, infatti mi è sfuggito che relativamente all'inchiesta della procura su i falsi invalidi, l'inchiesta si chiama La carica dei 104. Giustamente gli ascoltatori mi fanno notare che io ho giocato sulla carica dei 101, siccome sono 101 gli indagati, dico ne mancano ancora 3. 104 è il riferimento alla legge che permette, una legge importantissima, sacrosanta e giusta, quando non c'è qualche bandito che se ne approfitta, di assistere un congiunto, un figlio, un parente invalido assentandosi per alcuni giorni al mese, la 104. E fa ancora più schifo vedere che qualcuno, a fronte di problemi veri e reali, se ne approfitta in questo modo. Chiedo scusa, non mi ero accorto del riferimento. Allora, Mario Draghi oggi è intervenuto al Parlamento Europeo. La ripresa economica nella zona euro sta perdendo impulso. Dopo la moderata espansione degli ultimi trimestri, la crescita del PIL si è fermata nel secondo trimestre. Le informazioni sulle condizioni economiche ricevute in estate sono state più deboli del previsto. La disoccupazione elevatissima e la crescita debole del credito toglieranno forza alla ripresa. I rischi che circondano l'espansione attesa sono chiaramente al ribasso. In particolare, le tensioni geopolitiche potrebbero pesare sulla fiducia di imprese e consumatori. I rischi di insufficienti riforme strutturali potrebbero farsi sentire sugli investimenti. Il successo delle misure decise dalla BCE dipende strettamente da un numero di fattori che sono al di fuori della politica monetaria. Riforme strutturali coraggiose sono fondamentali per migliorare il contesto delle imprese. Né politica monetaria né altri stimoli possono avere un effetto significativo senza le riforme strutturali. La crisi finirà solo quando tornerà una piena fiducia nell'economia, quando le imprese torneranno ad assumere rischi, investire e creare lavoro. Questo dipende da molti fattori, inclusa la politica monetaria, ma soprattutto dall'attuazione delle riforme che sosterrà la credibilità della politica di bilancio. Quindi attenzione, i rischi sulla ripresa economica sono aumentati. È già in collegamento l'inviato del corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, Alessandro Meli. Alessandro, buonasera. Quanto mi piace l'inglese di Draghi, lo dico ogni volta, e anche l'inglese di Padoan. Siccome qualcuno continua a rompermi le scatole e dice: ah, lei fa gli elogi dell'inglese di Draghi, allora, abbiamo visto Rutelli a tempi please do visit Italy, abbiamo visto Berlusconi, sentito Berlusconi quando diceva Not Only, qualcuno adesso non è che ti posso fare sentire tutte. Beh, insomma, esiste anche un Matteo Renzi, tutti diversi questi premier, che sull'inglese, altro che quello di Draghi o di Padam. Ce l'abbiamo quel pezzettino di Renzi a Venezia su Digital Venice che parla in inglese? 30 secondi, dai, poi andiamo. My mother who cry in the TV when she feeling with the she felt the Berlin Walls destroyed by the people. Ecco, vabbè. Allora, no, allora potrò dire che mi piace l'inglese di Draghi. Alessandro Melli, al di là di questo, perché oggi è lunedì ed è dura per tutti riniziare, al G20 a Cairns hanno detto Europa, ma intendevano Germania, devi investire di più e abbassare le tasse. Draghi oggi ha detto, attenzione, la crescita rischia di essere più modesta del previsto per tutti. Secondo te, questo messaggio sta arrivando o no a Berlino? Ma forse sta arrivando, ma Berlino ha deciso di non ascoltarlo, nel senso che in questo momento Berlino si è innamorata, in particolare il cancelliere Merkel, ma soprattutto il ministro delle finanze Schäuble, si è innamorata di quest'idea che l'anno prossimo, per la prima volta dal 1969, il bilancio federale sarà in pareggio e per i prossimi anni la Germania non farà nessun nuovo debito. Questa è una frase che piace moltissimo all'opinione pubblica tedesca, quindi a Berlino è arrivata, ma anche l'opinione pubblica tedesca, un po' i politici e l'opinione pubblica tedesca se la dicono a vicenda, se la raccontano a vicenda questa storia. Lasciamo stare poi che gli investimenti pubblici non se ne fanno in Germania, sono stati sacrificati all'altare di questo bilancio in pareggio, ci sono dei ponti che devono essere chiusi 2-3 giorni alla settimana perché sennò sono a rischio crollo, le autostrade, famose autostrade tedesche sono piene di buchi, ci sono una serie di altri investimenti pubblici carenti, comprese le telecomunicazioni che non sono certo a livello da primato europeo, ancora meno da competere con gli Stati Uniti, ma sono da terzo mondo. Però si è deciso che la priorità in questo momento è il bilancio in pareggio, perché questo suona bene e soprattutto suona bene nel momento in cui per la prima volta alla destra dei democristiani, della signora Merkel e del ministro Schäuble c'è un partito che ha fatto dell'opposizione all'euro, che ha fatto del rigore estremo, la sua, oltre che messaggi vagamente anti-immigrazione, difesa del fondamentalismo cristiano, anti-islam, eccetera, eccetera, la sua bandiera che è Alternative für Deutschland. Quindi in questo momento la signora Merkel, che è accusata tra l'altro anche da un'ala del suo partito di essersi spostata troppo al centro, di quindi aver lasciato aperto questo varco, questo spiraglio sulla propria destra, non ha intenzione, secondo me, di fare delle concessioni a livello quindi europeo, né tantomeno a livello di G20, dove non c'è nessuna arma concreta di pressione per di minaccia. Allora, no, trovo geniale la battuta di un ascoltatore che dice: beh, speriamo di riuscire ad agganciare la frenata, perché continuiamo a dire speriamo di riuscire ad agganciare la ripresa, almeno speriamo di riuscire ad agganciare la frenata. Vedo che l'umorismo non manca, almeno quello. Ha ragione Alessandro Melli, perché la cosa che a me manda particolarmente in bestia è che la Germania, ognuno poi si fa i compiti a casa, continuiamo a criticare il modo in cui certi settori in Italia si autoproteggono, ma la Germania, come tu ricordavi, di questi investimenti ne avrebbe bisogno, cioè fosse un'economia con le infrastrutture a posto, con tutto quanto assolutamente in ordine, con le telecomunicazioni a livello nipponico, avrebbe bisogno di fare investimenti infrastrutturali, ma preferisce arrivare a un pareggio di bilancio, in questo modo evita di far crescere dei consumi interni di cui si avvantaggerebbe in senso sano e positivo anche il resto dell'Europa. Grazie Alessandro Merli, che vi devo dire, consoliamoci con volete l'inglese non di Draghi ma l'inglese di Renzi, vabbè, ve lo metto di nuovo e almeno chiudiamo su questo. Era un convegno Digital Venice, per carità, lo si fa anche per scherzare, però insomma abbiamo scherzato su Rutelli, abbiamo scherzato su Berlusconi e vabbè, se non se la prenderà il Presidente del Consiglio, ci diciamo che forse qualche lezioncina di inglese dovrebbe prenderla, eccolo qua. My mother who cry in the TV when she feeling with the she felt the Berlin Walls destroyed by the people. because the idea without marketing and commercial structure, the results are not good. But for a country, this is also the representation of possibility. He was a worker, so he invented the telephone to speaking about in the theater. A genius. He wasn't able to use the copyright license, come si dice brevetto, license, base. License in 80, adesso come spesso accade in questi momenti, tocca al now is the time to eat the lunch, and for Italian politician is absolutely crucial to say now is the time of lunch. Radio 24. La passione si sente.